Capitolo quarto. Nuovo aspetto di Robert de Saint-Loup. È inaudito, mi disse mia madre. Senti, alla mia età non ci si meraviglia più di niente, ma ti assicuro che niente è più inatteso della notizia che mi dà questa lettera. Stammi a sentire, replicai. Non so di cosa si tratti, ma per sbalorditiva che sia, non può esserlo quanto quella che c'è nella mia. È un matrimonio. Robert de Saint-Loup sposa Gilbert Swann. Ah! Disse mia madre. Probabilmente è quanto mi dice l'altra lettera, quella che non ho ancora aperta, perché ho riconosciuto la scrittura del tuo amico. E la mamma mi sorrise, con quella lieve emozione di cui, da quando aveva perduto sua madre, si rivestiva per lei qualsiasi avvenimento, per esile che fosse, concernente creature umane capaci di dolore, di ricordo, e anch'esse con i loro morti. Così la mamma mi sorrise e mi parlò con voce dolce, come temendo, se avesse trattato con leggerezza quel matrimonio, di sottovalutare le impressioni malinconiche che esso poteva suscitare nella figlia e nella vedova di Swann, nella madre di Robert, sul punto di separarsi da suo figlio, e alle quali, per bontà, per simpatia suggerita dalla loro bontà nei miei confronti, mia madre prestava la sua propria emotività filiale, coniugale e materna. «Non avevo ragione a dirti che non potevi trovare niente di più sbalorditivo?» le chiesi. «E invece sì», mi rispose con voce dolce. «Ce l'ho io la notizia più straordinaria. Non ti dirò la più grande e la più piccola, perché questa citazione di Sévigné, fatta da chi non sa altro di lei, nauseava la tua nonna quanto come bello voltare il fieno. Non ci degniamo noi di raccattare questa Sévigné di tutte. La lettera che ho qui mi annuncia il matrimonio del giovane Cambremé». «Ma guarda», dissi con indifferenza, «e con chi? Ma in ogni caso la personalità del fidanzato toglie già a questo matrimonio qualsiasi carattere sensazionale». «A meno che non ci sia a darglielo quello della fidanzata». «E chi è questa fidanzata?» «Ah, se te lo dico subito non c'è gusto. Coraggio, cerca un po'», rispose mia madre, che vedendo come non fossimo ancora a Torino voleva conservarmi qualcosa per i tempi di magra. «Ma come faccio a saperlo?» «Con una persona in vista?» «Se Le Grandin e sua sorella sono contenti, possiamo essere sicuri che è un matrimonio brillante. Le Grandin non lo so, ma la persona che mi annuncia il matrimonio dice che Madame de Cambremé è al settimo cielo». «Non so se tu lo definirai un matrimonio brillante. A me fa l'impressione d'un matrimonio dei tempi in cui i re sposavano le pastorelle. Anzi, la pastorella è meno ancora d'una pastorella, però molto graziosa». Questo avrebbe sbalordito la nonna. E non le sarebbe dispiaciuto. Ma insomma, chi è questa fidanzata? È Mademoiselle Doloron. Mi sa di grandioso e niente affatto pastorizio. Ma non capisco chi possa essere. È un titolo che apparteneva alla famiglia dei Guermont, appunto. E il signor di Charlieu l'ha dato, adottandola, alla nipote di Jupion. È lei che sposa il giovane Cambremé. La nipote di Jupion? Non è possibile. È la ricompensa della virtù. «È un matrimonio da finale d'un romanzo della Sand», disse mia madre. «È il prezzo del vizio. È un matrimonio da finale d'un romanzo di Balzac», pensai io. «In fondo», dissi a mia madre, «riflettendoci è abbastanza naturale. Ecco, i Cambremé radicati nel clan dei Guermont, dove non avrebbero mai sperato di piantare le tende. In più, la piccina, adottata da Charlieu, avrà molto denaro, cosa indispensabile dato che i Cambremé hanno perduto il loro, e tutto sommato è la figlia adottiva e, secondo i Cambremé, probabilmente la figlia vera, la figlia naturale di uno che loro considerano come un principe del sangue. Un bastardo d'una casa quasi reale è sempre stato considerato un partito lusinghiero dalla nobiltà francese e straniera. Senza riandare troppo in là, ai Lusange, ricorderai, non più tardi di 6 mesi fa, il matrimonio dell'amico di Robert con quella fanciulla la cui sola ragion d'essere sociale era che la si supponeva, a torto o a ragione, figlia naturale d'un principe sovrano. Mia madre, pur mantenendo quel senso delle caste tipicamente Combré, in base al quale la nonna avrebbe dovuto scandalizzarsi d'un simile matrimonio, volle esporre innanzitutto il giudizio di sua madre e aggiunse: «D'altronde la piccina è perfetta, e la tua cara nonna non avrebbe nemmeno avuto bisogno della sua immensa bontà, della sua indulgenza infinita per non essere severa sulla scelta del giovane Cambremé. Ti ricordi come l'aveva trovata distinta la piccina tanto tempo fa, quel giorno che era entrata a farsi ricucire la gonna? Allora era soltanto una bambina e adesso, pur tanto cresciutella e da marito, è tutt'altra cosa, 1000 volte meglio. Ma la nonna, con un'occhiata, aveva già visto tutto. Aveva trovato la nipotina d'un farsettaio più nobile del duca di Guermont. Ma più ancora che di lodare la nonna, mia madre aveva bisogno di credere che fosse meglio per lei non esserci più. Era la finalità suprema della sua tenerezza, e come se le risparmiasse un ultimo dispiacere. Eppure, mi disse, pensa se a parte tutto il vecchio Swan, che tu è vero non hai conosciuto, avrebbe mai supposto d'avere un giorno un nipotino o una nipotina in cui sarebbero confluiti il sangue della vecchia Moser che diceva «Buongiorno, signori!» e il sangue del duca di Guisa. Ma guarda, mamma, che è ancora più stupefacente di quanto tu non dica, perché gli Swan erano gente molto a posto e con una posizione come quella del figlio, la nipote, se lui avesse fatto un buon matrimonio, avrebbe potuto farne uno magnifico. Ma tutto era tornato a zero perché lui aveva sposato una cocotte. Oh, una cocotte! Forse sai, era una cattiveria, io non ci ho mai creduto fino in fondo. Ma sì, una cocotte, ti farò addirittura delle rivelazioni familiari un altro giorno. Perduta nella sua fantasticheria, mia madre diceva «La figlia di una donna che tuo padre non mi avrebbe mai permesso di salutare sposa il nipote di Madame de Villeparisis, che tuo padre, i primi tempi, non mi permetteva d'andare a trovare perché la giudicava in un ambiente troppo brillante per noi. E poi, il figlio di Madame de Cambremer, per il quale Le Grandin temeva tanto di doverci dare una raccomandazione perché non ci riteneva abbastanza chic, sposa la nipote di un uomo che non avrebbe mai osato salire da noi se non dalla scala di servizio». Comunque tua nonna aveva ragione quando diceva, ricordi, che la grande aristocrazia fa cose che urterebbero dei piccoli borghesi e che la regina Marie Amélie le era scaduta a causa delle avance che aveva fatte all'amante del principe di Condé per indurla a fargli lasciare un testamento a favore del duca d'Aumale. Ricordi come la urtava che delle discendenti della casa di Gramont, che sono state autentiche sante, portassero da secoli il nome di Corisond in memoria della relazione di un'antenata con Enrico IV. Sono cose che si fanno, forse, anche nella borghesia, ma si tengono più nascoste. E tu credi che si sarebbe divertita di questa storia la tua povera nonna? Diceva la mamma. Con tristezza, perché le gioie da cui soffrivamo che la nonna fosse esclusa erano le gioie più semplici della vita, una notizia, una commedia, meno ancora un'imitazione, che l'avrebbero divertita. Credi che si sarebbe stupita? Io penso piuttosto che l'avrebbero urtata questi matrimoni, che avrebbe provato disagio, credo sia meglio che non ne abbia saputo niente, riprese mia madre. Perché di fronte a qualsiasi avvenimento le piaceva pensare che la nonna ne avrebbe ricevuto un'impressione affatto singolare, dovuta alla meravigliosa singolarità della sua natura e dotata di un'importanza straordinaria. In presenza di ogni avvenimento triste e a suo tempo imprevedibile, la disgrazia o la rovina di un nostro vecchio amico, qualche calamità pubblica, un'epidemia, una guerra, una rivoluzione, mia madre pensava che forse era meglio che la nonna ne fosse rimasta all'oscuro, che si sarebbe troppo rattristata, che forse non avrebbe potuto sopportarlo. E quando si trattava di una cosa scioccante come queste, mia madre, con un movimento del cuore inverso rispetto a quello dei cattivi cui fa piacere supporre che chi non amano abbia sofferto più di quanto non si creda, non voleva ammettere, nella sua tenerezza per la nonna, che le fosse potuto succedere qualcosa di triste, di mortificante. Si figurava sempre la nonna come al di sopra degli attacchi d'ogni male che non sarebbe dovuto accadere. Si diceva che la sua morte era stata forse, in fin dei conti, un bene, perché aveva risparmiato lo spettacolo troppo brutto del presente a quella natura tanto nobile che mai sarebbe stata capace di rassegnarvisi. L'ottimismo è, infatti, la filosofia del passato. Dato che gli avvenimenti realmente verificati si sono, fra tutti quelli che erano possibili, i soli di cui abbiamo conoscenza, il male che hanno provocato ci sembra inevitabile, mentre del poco bene che non hanno potuto fare a meno di portare con sé è a essi che attribuiamo il merito, immaginandoci che senza di loro non si sarebbe prodotto. La mamma cercava, nello stesso tempo, di indovinare meglio cosa avrebbe provato la nonna apprendendo queste notizie e insieme di credere che fosse impossibile indovinarlo per le nostre menti meno elevate della sua. «Pensa», mi disse per prima cosa mia madre, «come si sarebbe stupita la tua povera nonna». E io sentivo come soffrisse di non poterglielo comunicare, rimpiangendo che la nonna ne restasse all'oscuro e trovando ingiusto che la vita portasse alla luce qualcosa a cui la nonna non avrebbe potuto credere, rendendo così retrospettivamente falsa e incompleta la sua conoscenza delle persone e della società, giacché il matrimonio della piccola Jupion con il nipote di Le Grandin era un fatto di tale natura da modificare le nozioni generali della nonna. Alla stessa stregua della notizia, se mia madre avesse potuto fargliela pervenire, che si era arrivati a risolvere il problema dalla nonna creduto insolubile della navigazione aerea e della telegrafia senza fili. Ma vedremo come il desiderio di far partecipe la nonna dei benefici della nostra scienza sia parso ben presto ancora troppo egoistico a mia madre. Venni a sapere, non avendo potuto assistervi da Venezia, che Mademoiselle de Forcheville era stata richiesta dal duca di Châtellerault e dal principe di Silistra, mentre Saint-Loup cercava di sposare Mademoiselle d'Entragues, figlia del duca di Luxembourg. Ecco com'era andata. Poiché Mademoiselle de Forcheville possedeva 100 milioni, Madame de Marsant aveva pensato che fosse per suo figlio un eccellente matrimonio. Ebbe il torto di dire che la fanciulla era incantevole, che lei non sapeva assolutamente se fosse ricca o povera, né voleva saperlo, ma che, anche senza dote, avere una moglie simile sarebbe stata una fortuna per il più difficile dei giovanotti. Era una bella audacia da parte di una donna tentata soltanto dai 100 milioni, che le facevano chiudere gli occhi sul resto. Si capì subito che ci pensava per suo figlio. La principessa di Silistra levò ovunque alte grida, si diffuse sulle grandezze di Saint-Loup e proclamò che se Saint-Loup avesse sposato la figlia di Odette e di un ebreo sarebbe stata la fine del Faubourg Saint-Germain. Madame de Marsant, pur così sicura di sé, non osò al momento spingersi oltre e batté in ritirata di fronte alle grida della principessa di Silistra, che fece subito fare la domanda per suo figlio. Aveva gridato esclusivamente allo scopo di riservarsi Gilbert. Madame de Marsant, non volendo restare su una sconfitta, si era subito spostata su Mademoiselle d'Entragues, figlia del duca di Luxembourg. Possedendo solo 20 milioni, le andava meno bene, ma disse a tutti che un Saint-Loup non poteva sposare una Swann. Di Mademoiselle de Forcheville non si parlava più. Dopo un po' di tempo, avendo detto qualcuno sbadatamente che il duca di Châtellerault pensava di sposare Mademoiselle d'Entragues, Madame de Marsant, che era puntigliosa quant'altri mai, reagì, aggiustò il tiro, tornò a Gilbert, fece fare la domanda per Saint-Loup e il fidanzamento ebbe subito luogo. Questo fidanzamento suscitò vivaci commenti negli ambienti più svariati. Parecchie amiche di mia madre, che avevano visto Saint-Loup a casa nostra, vennero al suo giorno per informarsi se il fidanzato fosse proprio il mio amico. A proposito dell'altro matrimonio, certe persone sostennero addirittura che non si trattava dei Cambremer Le Grandin. Lo si sapeva da buona fonte, giacché la marchesa nata Le Grandin l'aveva smentito proprio alla vigilia delle pubblicazioni. Personalmente mi chiedevo perché il signor di Charlieu da una parte, Saint-Loup dall'altra, avendo avuto occasione di scrivermi poco tempo prima, mi avessero parlato di così amichevoli progetti di viaggi, la cui realizzazione avrebbe dovuto escludere la possibilità di simili cerimonie, e di quelle non m'avessero fatto cenno. Ne concludevo, senza pensare al segreto che si tiene sino all'ultimo su questo genere di cose, di non essere loro amico quanto avevo creduto. Il che, nei confronti di Saint-Loup, mi addolorava. Del resto, avendo notato come la gentilezza, il mettere sul proprio stesso piano, il trattare da pari a pari dell'aristocrazia fosse una commedia, perché mai mi stupivo d'esserne escluso. Nel bordello, dove oltre alle donne sempre più si procuravano uomini, dove Charlieu aveva sorpreso Morel e dove la vice tenutaria, grande lettrice del Gaulois, commentava le notizie mondane, Costei, parlando a un signore grasso che andava da lei a bere senza sosta champagne in compagnia di giovanotti perché, già molto grasso, voleva diventare abbastanza obeso da essere sicuro che non lo beccassero se mai ci fosse stata una guerra, dichiarò: «Sembra che il giovane Saint-Loup sia di quelli e il giovane Cambremé anche. Povere sposine. Comunque, se conoscete i fidanzati, fateli venire da noi. Qui troveranno tutto quello che vogliono e con loro c'è da guadagnare un bel po' di denaro». Al che il signore grasso, sebbene fosse anche lui di quelli, replicò fieramente, essendo un po' snob, che vedeva spesso Cambremé e Saint-Loup in casa dei suoi cugini d'Ardonville e che erano grandi donnaioli, esattamente l'opposto di così. «Ah», concluse la vicetenutaria in tono scettico, ma senza alcuna prova, e persuasa che nel nostro secolo la perversità dei costumi fa a gara con l'assurdità calunniosa dei pettegolezzi.